verso, lungo il mio percorso, ormai da tempo che sto cercando la mia strada, ma non la trovo. Sto portando troppo in alto nel passaggio, tengo tutto il mondo tra le dita. In pratica in questa vita non ho mai fatto un cazzo, arrivato al quarto di secolo, trovandomi in bilico sul patibolo. Ho raschiato così tanto nel fondo che peggio di così non si può più cadere. Sono cresciuto senza genitore, ho rubato il sopravvivere, ho spacciato per mangiare, ma nessuno mai mi è riuscito a fermare. Ho un conto aperto col passato ed è per questo che mi presento a brutto muso, per ottenere ciò che mi è dovuto. Lasciate che sia ciò che immaginate, lasciate che sia tutto ciò che volete, lasciatemi vivere come voglio, solo questa vita e un'altra non ce l'ho. Lasciatemi vivere come voglio, come se ogni giorno fosse l'ultimo, lasciatemi vivere come voglio. Io voglio riuscire a volare senza che mi debba drogare, trovando un metodo per uscire in questo massacro. Adesso che rimango fermo con lo sguardo fisso, due occhi rossi di rabbia, 3000 conti da pagare, è un'infanzia da recuperare, ponendomi domande su cosa giusto era fare, trovandomi mischiato tra tutte persone pronte a pugnalarti alla schiena. Ma si sa che è sto mondo il più pulito, la roglia in questa vasca di piraglia, sono in piena emergenza, luce rossa d'allerta, alza la resistenza, mentre la mia voce infiamma la massa, cambio il programma, inverto la tendenza, sono la voce di riverenza per ottenere il massimo in questa assistenza. Voglio conquistare il mio sogno, voglio ripagarvi tutti con la stessa moneta, voglio vivere la mia vita fino in fondo. Lasciate che sia ciò che immaginate, lasciate che sia tutto ciò che volete, lasciatemi vivere come voglio, solo questa vita e un'altra non ce l'ho. Lasciatemi vivere come voglio, come se ogni giorno fosse l'ultimo, lasciatemi vivere come voglio. Io voglio tutto adesso, voglio poter continuare a sognare senza temere che qualcuno mi possa svegliare, perché ogni giorno ogni uomo godere e vedere soffrire. Ma qui siamo alle solite, quante persone vogliono farti da carnefice, considerando l'anello debole, ma svegliato a giudicare. In fondo questa vita mi ha fortificato, cruelizio autocriminale, sono sempre io il colpevole. Il re ha confesso ogni tentativo per conquistare me stesso, in questo percorso fatto di storia e vita comune, situazione più nitida e nel sociale. Mi riprendo questa esistenza con ogni mezzo legale, non volendo tutto, non sapendo fino a che punto posso arrivare. Mi presento al processo come condannato a morte, ma non si può fermare chi non è morto sotto i colpi di questo mondo. Voglio conquistare il mio sogno, voglio ripagarti tutti con la stessa moneta, voglio